We are grateful to Massimo, who is going to translate for us. Stasera siamo grati a Massimo, a me, che vi tradurrà. Ecco. Possibly. Sì. Well, we have certain people who can help. Sì, ci sono alcune persone che potranno aiutare. I want to cover some subjects, mainly as a reminder for people. Voglio parlare di alcuni argomenti, specie per come un reminder, un come si dice? Per ricordare, insomma, le persone. Ecco. Mm. And also to introduce some people to these ideas. E anche per introdurre alcune idee alle persone. The first thing is how we bring the practice into daily life. Il primo è come si fa la pratica nella vita di tutti i giorni. And we'll touch upon ambition. Oui. Ambition. Ambition, ambizione. Ambizione, sì. Sì. And we'll touch upon ambition. Ah, e toccheremo anche l'ambizione. And we'll talk a little bit about consumerism and vegetarianism. Parleremo un po' di consumismo e vegetarianesimo. And then we have a virtuous circle. Come si dice questo? Circolo virtuoso. Ah, sì. Un circolo virtuoso. And finally, what it means to take refuges and precepts. E alla fine quello che significa prendere i rifugi e i precetti. Yeah. So, the first thing to remember is that the morning meditation is really important. Prima cosa da ricordare è che la meditazione della mattina è molto importante. Mm. Because, as it were, it sets us in the right awareness for the day. Perché ci mette nella giusta disposizione di consapevolezza per il giorno. Ah. And it doesn't matter how long it is, it matters the what matters is the quality of it. Non ha importanza quanto è lunga, ma la qualità. So even if you only have time to do 5 minutes, do 5 minutes. Anche se avete solamente tempo di fare 5 minuti, allora fate 5 minuti. Ah. And for those of you who are new to the practice, you have to establish a habit. Per quelli che sono nuovi alla pratica, dovete stabilire una abitudine. And one way to establish habit is to make a religious determination to do it every day for at least 6 months. E il modo per stabilire questa pratica è di fare una determinazione religiosa di praticare tutti i giorni per almeno per 6 mesi. Ah, then hopefully the habit is pretty well established, you see. E alla fine sarà abbastanza ben stabilita. Mm, because if the habit is not well established, you miss one day, and then you miss 2 days, and it's gone. Ah. Se la pratica non è ben stabilita, prima si perde un giorno, poi se ne perde due, e poi se ne va. So, in a sense, it has to be, you have to make the effort to establish it. E quindi in un certo senso dovete fare lo sforzo di stabilire questa pratica. And for what you might call false beginners. E per quelli che si potrebbero chiamare i falsi principianti. No. Those who start then stop for many years and then come back. Quelli che iniziano, poi si fermano per diversi anni e poi ritornano. Ah, the same applies to them too. E la stessa cosa si applica anche a loro. So then we have, to match that, we have the evening meditation. E poi dopo abbiamo anche la meditazione della sera. after a day, it doesn't matter whether it's been a working day or non-working day. Dopo una giornata, non importa se è stato di lavoro o no. There should be a time in the evening where you sit with yourself. Ci dovrebbe essere un momento nella serata in cui vi siedete con voi stessi. And it's always best to do it before you eat. Sarebbe sempre meglio di farlo prima di mangiare. Because after you eat, you always fall asleep. Perché dopo mangiato sempre si finisce addormentati. There is a certain benefit in sleeping meditation. C'è un certo beneficio nella meditazione del addormentata. Ah, one feels very rested. Uno si sente molto riposato. Ah, but in terms of the process of liberation, not very much. Ma riguardo al processo di liberazione non funziona. Ah. So, what do we do at the end of the day? Cosa si fa alla fine del giorno? Quindi? So, when you sit there, you see, the day, you can go through the day in a logical sequence, the morning, the afternoon, and so on. Si può andare a rivedere la giornata in una sequenza logica, la mattina, il pomeriggio, la sera. Mm. Or you can just sit there and just see what comes up. Oppure ci si siede e si guarda quello che viene fuori. So, we've been perhaps a little excited during the day, we've been a little angry, little anxious. Forse siamo stati agitati, arrabbiati, ansiosi. Mm. But we've also been happy, peaceful, ma anche and so on. Felici o in pace. And we just do vipassana on those things. Noi facciamo la vipassana su quello che c'è, su queste cose. Now on both of these times in the morning, you finish with metta. Always finish with metta. E sempre si finisce con metta. Because metta translates any wisdom we've gained into an attitude. Perché la metta traduce tutto ciò che abbiamo appreso, ottenuto in un'attitudine. Mm. So compassion, for instance, love, is wisdom in action. La compassione, l'amore, è saggezza in azione. And don't forget joy. Non dimenticatevi della gioia. So sometimes we do a lot of love, but not enough joy. A volte facciamo molto di amore ma non di gioia. In the morning, as you see, I tend to do the more compassionate side. La mattina io tendo a fare il lato più compassionevole. Mm. And in the evening more the love. E la sera più la parte dell'amore. And I usually, for some reason, I've forgotten to do it on this retreat. Per qualche ragione mi sono dimenticato di farlo in questo ritiro. I always try to bring to mind some joyful event during the day. E allora cerco di riportare alla mente eventi gioiosi durante il giorno. And wish myself greater joy. E mi auguro una gioia più grande. And then I bring to mind somebody whom I know has some good cause to be joyful. E poi porto alla mente qualcuno che, sorry, who has a good cause to be joyful, a good reason to be joyful. Qualcuno che potrebbe avere una buona ragione per essere gioioso. And I wish them joy and greater joy. E io allora auguro a queste persone una gioia ancora più grande. And then to all beings, you see. E poi a tutte le creature. So remember, there are these three qualities, great qualities of love, compassion and joy. Ci sono queste tre qualità, l'amore, la compassione e la gioia. And the other quality is this equanimity, this being able to stay contented, calm. L'altra qualità è l'equanimità, cioè avere la possibilità di stare in pace e contenti, contenti, anche contento, sì, appagato. Appagato, sì. We ought to begin to practice. Let me think now. Just a minute. We ought to begin to develop a taste for just that peacefulness, calmness, and silence. Dovremmo cominciare a sviluppare un gusto per la pace, la calma e il silenzio. Mm. So that after we've done something, we always come back to just being calm and equanimous. Dopo che abbiamo fatto qualcosa, dovremo sempre ritornare ad essere calmi ed equanimi. Ah, because usually what people in our society are doing is always becoming excited, excited. Perché quello che succede alle persone nella nostra società di solito è di diventare sempre più eccitati. Mm. Either because they are over, they're indulging themselves in something, or they are stressed. O perché indulgono in qualche cosa, o perché sono stressati. Ah. So to be able constantly throughout the day to keep stopping. Essere in grado costantemente durante la giornata di fermarsi. After every task you do, just stop. Dopo ogni compito che avete portato a termine, semplicemente fermatevi. After you've eaten, just stop for a minute. Dopo aver letto, fermatevi un momento. After a telephone call, stop for a minute. Dopo una telefonata, fermatevi un attimo. After you've sent an email, stop for a minute. Dopo aver mandato un'email, fermatevi per un minuto. And then regret you sent it. E poi dispiacetevi di averla mandata. Emails. You have to be careful, eh? Dovete stare attenti. On my tablet, I've programmed it to ask me, do I really want to send this email? Sul mio tablet di solito ho programmato che mi chieda se veramente voglio spedire questa email. As many times as you can just stop and let whatever excitement has been just slowly power down. Tutte le volte, se voi potete fermarvi e lasciare che qualsiasi tipo di eccitazione piano piano si perda di forza. The more by the end of the day you feel you've got much more energy. E alla fine del giorno vi troverete con più energia. This was one of the first effects that meditation gave me. Questo è stato uno dei primi effetti che la meditazione mi ha dato. Because I used to teach in a technical college, Una scuola tecnica. Insegnavo in una scuola tecnica. So always rushing from one class to the next. E sempre si andava di fretta da una classe a un'altra. And then I began to use the moving from one classroom to another to let go of that classroom, and by the time I got to the new classroom there was a little bit more peace around, you see. E io usavo il tempo che avevo tra una lezione e un'altra per lasciare andare quello che era successo in una classe, e quando al momento che entravo nell'altra classe ero più in pace. And just by, you know, stopping whenever I remembered, just to let everything just power down, I had so much energy at the end of the day, much more. Facendo questa pratica di fermarmi tutte le volte che me lo ricordo e lasciare che queste cose si perdano di potere piano piano, si diminuiscano di forza queste eccitazioni, mi lascia più energia. By the end of the day. And you can even use the noting technique if you're doing something physical. potete usare la tecnica di prendere le note mentali se state facendo qualche cosa di fisico. For instance, if you're cooking or washing pots, something very physical. Qualcosa molto molto pratico come cucinare o lavare i piatti. And you find your mind wandering all over the place. By using the noting technique, you just keep relaxing into what you're doing. E vi accorgete che la mente sta andando in giro, pensando altre cose, allora usando la tecnica della nota mentale potete rilassarvi in quello che state facendo. And if you can find some time in the middle of the day just to be quiet and sit still, that also is very helpful. È molto utile anche se riuscite a trovare un periodo nel mezzo della giornata solo anche per sedersi e rimanere in silenzio. And then finally, you know, it's important to prepare to sleep. E poi per finire è importante prepararsi per dormire. You know, it's no good just coming off a horror movie and then just going to bed. Non è una buona cosa appena di ritorno da un film dell'orrore andare a letto. Somehow you have to prepare the heart and mind to, you know, go into a deep sleep. E the heart mind? The mind and the heart. Ah, scusami. Dovete preparare la mente cuore a entrare nel sonno. So at least half an hour before you go to bed to begin to calm yourself. Almeno mezz'ora prima di entrare nel letto di cominciare a calmarsi. So there's some reading. It doesn't always have to be spiritual. Magari anche leggere non deve necessariamente essere una lettura spirituale. Or some listening to some calming music, beautiful music. O ascoltare una musica rilassante, bella. Lots of new age music. New age music. Come si dice? New age. New age, ah. or doing some practice, some metta. O fare un po' di pratica, metta. So, whatever helps you just to calm down, then you'll see you sleep much more deeply. Qualsiasi cosa che vi aiuti a calmarvi, poi vedrete che vi farà dormire più profondamente. Sometimes when I get very busy, what I like to do is to write a list of all the things I have to do tomorrow. Quando sono molto indaffarato, quello che faccio è di scrivere una lista delle cose che devo fare domani. So that I'm not worrying about it in sleep. It's waiting for me when I wake up. E in questo modo non ho bisogno di preoccuparmene mentre dormo, perché la lista è lì ed è già pronta per quando mi sveglio. So it's up to each individual to find their rhythm. E tocca a ciascuno di voi di trovare un ritmo. Then there's this a regular question is one about ambition. Una domanda che c'è sempre riguarda l'ambizione. Normally speaking, we're always having to push ourselves to get some better job if we want to. Normalmente siamo tutti cerchiamo tutti di spingerci ad avere ad esempio un lavoro migliore. If you want it. Se lo si vuole. We've always attached to it some sense of self-esteem. E ci attacchiamo sempre a questo un po' di senso di autostima. So that there's a pressure coming from pride. C'è una pressione che viene dall'orgoglio. So that if we go for a job and we don't get it, we feel disappointed, we lose confidence. E quindi se noi cerchiamo di avere un lavoro e non riusciamo ad averlo, allora ci sentiamo disappointed, delusi e perdiamo perdiamo la confidenza con noi stessi. So we, and we and this has a sort of bad effect on us, because then, you know, we stop trying to go for something better. Questo può avere un brutto effetto su di noi, perché ci blocca nel cercare di ottenere cose migliori. And this is one of the diseases of doubt, you see. Diseases of? Diseases. Of? Illness of doubt. Doubt la dubbio. Ah, sì, questa è una delle malattie del dubbio. So how can we have a different... how can we have a different? Oh dear! Sometimes the word doesn't approach. Come. Approach. A different approach. Thank you. How can we have a different definition, a different approach to ambition? E come possiamo avere un approccio differente, una definizione diversa di ambizione? So, supposing now we were to say to ourselves, these are the skills that I have. Supponiamo che noi possiamo dirci, queste sono le capacità che io ho. And I'm going to offer them. Io le offrirò. I'm going to offer them in the in an attitude of, you know, if it doesn't fit what the employer wants, that's fine. Offrirò queste abilità che ho con un'attitudine di questo tipo. Se al datore di lavoro non gli va bene, va bene. If there is somebody better than me for the job, then they should have it. Se c'è qualcuno che è migliore di me per questo lavoro, è loro giusto che abbiano questa persona. It's not for me to judge that, it's for the employer. Non è una cosa che devo giudicare io, ma il datore di lavoro. Ah, sì. So then, if your application is not accepted, then, you know, fine. Se la vostra richiesta non viene accettata, va bene. Va bene. Not so many. Not so many tears. Non troppe lacrime. If you see your life as an offering, you see, then it's not a problem if your offering is not accepted. Se vedete la vostra vita come un'offerta, non c'è problema se la vostra offerta non viene accettata. The next thing that people ask about is things like vegetarianism. Un'altra cosa che di solito viene chiesta è riguardo al vegetarianesimo. I think this partly to do with the ethics of consumerism. In parte ha a che fare con l'etica del consumismo. And partly to do with the ethics around animals. E in parte con l'etica che gira intorno agli animali. What is the basic attitude of a consumer? Qual è l'attitudine di base di un consumatore? Is it not to take as much as you can for as little as you can give? E non è no? Di avere il più possibile per dando il meno possibile. See? So, this means that whenever we are buying something, we're always looking for the bargain. E quindi questo vuol dire che quando andiamo a comprare qualcosa stiamo sempre a cercare l'affare. And if this translates into a generalized attitude to life, se questo si traduce in un'attitudine generalizzata nei riguardi della vita, then it destroys the good heart. Distrugge il buon cuore. Ah. At an international level, what do I get? What does Italy get for giving aid to other countries? E a un livello internazionale, ad esempio, che cosa se ne viene a dare aiuti agli altri paesi? Ah. We're looking for, well, what do we get? Cosa abbiamo in cambio? Ah. At a national level, what can this country do for me? A un livello nazionale, che cosa può fare questo paese per me? Ah. The idea of what can I do for my country, it goes out of the window. L'idea, cosa posso fare io per il mio paese, se n'è andata fuori dalla finestra. Ah. When it comes to relationships, it's always bargaining. Anche nelle relazioni è sempre contrattare. Ah. We say, if you scratch my back, I'll scratch yours. Se tu gratterai la mia schiena, io gratterò la tua. Beh, sì, it's always. So, it's like our whole lives become tainted with the idea that I have to get the best I can when I get for what I give. E tutta la vita viene riempita dall'idea che io devo avere il meglio in corrispettivo di quello che do. Ah. It undermines the whole idea of charity. Eh? E questo distrugge proprio l'idea della beneficenza. Ah, you see? Now, when it comes to vegetarianism, there is, on top of that, you see, there is the problem of animal ethics. E arrivando al essere vegetariani, in cima alla questione c'è l'etica riguardo agli animali. Mm. I once, once had an argument with our teacher in Birmingham. Una volta in Birmingham abbiamo avuto una discussione con altri insegnanti. No, with my teacher, our teacher. Col nostro insegnante. No, yeah. So he was, some of you might have met him, he was quite a famous monk. Che era, sorry? Some of you might have met him, he was quite a famous monk. Ah, lui, forse qualcuno di voi l'ha incontrato, era un monaco assai famoso. Ah, Rewata Dhamma. Nessuno? No? I think you met him, didn't you, Gianni? Sì. In Buddhist ethics, nell'etica buddista, the killing of the animal is one moral problem. Uccidere un animale è un problema morale. Destroying life. Distruggere una vita. Eating the animal is something completely different. Mangiare l'animale è qualcosa di completamente diverso. That would be greed, perhaps. Potrebbe essere golosità, avidità. Ah, yeah. So, we argued with the teacher, Bhante. When a layperson buys meat, noi abbiamo avuto questa discussione col maestro, abbiamo detto, Bhante, quando un laico compra la carne, they know that some of the money is going back to the butcher. Noi sappiamo che un po' dei soldi ritornano al macellaio. So there is some karmic involvement in the killing of the animal. E quindi c'è un coinvolgimento karmico nell'uccisione dell'animale. He would not accept this. Lui non accettò questo punto di vista. Ah, so we had to keep hammering the point until he did. E quindi abbiamo dovuto insistere fino a che lui lo fece. Ah. Sì. The next day we were traveling together. Il giorno dopo stavamo viaggiando insieme. And we went to a cafe and he bought bacon and eggs. Allora andammo a un caffè e lui comprò uova e pancetta. So it depends on the individual's sensibilities. Quindi dipende dalla sensibilità individuale. There was once a time when Ajahn Chah came to England. Una volta quando Ajahn Chah è venuto in Inghilterra. Ajahn Chah, I think most of you know. Che molti di voi, la maggior parte di voi lo conosce. Yeah, a very famous Thai master who's died many years ago now. Un famoso maestro thailandese che è morto diversi anni fa. And a farmer said to him, you know, whenever I'm working in the fields, I feel really bad about the killing of worms and little animals. Un contadino gli disse, ma quando lavoro nei campi mi sento sempre, sto male al pensiero di uccidere animali come vermi. Little bugs. Sì, piccoli insetti. Ah, what should I do? He said. Cosa dovrei fare? Gli chiese. Ajahn Chah said, become a monk. Ajahn Chah gli rispose, diventa un monaco. So it depends on a person's sensibility. Dipende dalla sensibilità di una persona. And I know some people who actually need to eat meat because of their diet. Io so che ci sono persone che hanno bisogno di mangiare la carne perché ne hanno bisogno per la loro dieta. The important thing is, if we are going to eat meat, then at least to eat, you know, just enough. Se dovete mangiare la carne, almeno mangiate giusto quello che serve. The Satipanya Trust decided that we should try and become almost without meat products. Il Satipanya Trust, come lo traduciamo? La charity. Sì, questa organizzazione di beneficenza, il Satipanya, ha deciso di try not to use any di non usare prodotti animali. Like butter, cheese, eggs. Anche burro, formaggio, uova. When we realized that 18% of what do you call them, these gases that warm the atmosphere. 18%. 18%. Noi abbiamo capito che il 18% dei gas che riscaldano l'atmosfera is caused by the whole of the animal industry. È causato nell'insieme l'industria degli animali. And that it is more than that caused by traffic. Ed è più di quello causato dal traffico. So there was a decision not to buy anything. Quindi ci fu questa decisione di non comprare niente. Of animal products. Di prodotti animali. So it really is up to the individual to decide for themselves where they stand within the range of vegetarianism. Quindi è una cosa che le persone devono decidere per conto proprio se vogliono stare nel range, nell'area del vegetarianesimo. You don't want to start feeling guilty about eating meat if you feel that you need it. Meglio se non vi sentite colpevoli, sensi di colpa se mangiate della carne, se ne avete bisogno. Mm. Remember, the Buddha himself ate meat. Il Buddha stesso mangiava la carne. Monks and nuns are in a slightly different situation. Tuttavia, monaci e monache sono in una situazione leggermente diversa. Because we're supposed to just hold out the bowl and whatever goes in we accept. Noi just hold out the bowl. We're supposed to. Si suppone che noi semplicemente tiriamo su la ciotola e qualsiasi cosa ci viene buttato dentro noi l'accettiamo. There was a case of a leper putting something into the monk's bowl. Leprosa. Un lebbroso. C'è stato un caso di un lebbroso che ha messo qualcosa nella ciotola del monaco. This is written in the books about the Vinaya, the rule. È scritto nel Vinaya, il libro delle regole dei monaci. And the thumb fell in. E anche un pollice, un dito ci cascò dentro. So the monk ate it. E il monaco lo mangiò. It was an offering. Era un'offerta. I don't know if he cooked it first. Non so se lo aveva cucinato prima. And of course, the Buddha is, you cannot, the Buddha doesn't go, he doesn't like isms. Al Buddha non piacevano gli ismi. Because you cannot make an absolute rule for a relative world. Non puoi fare regole assolute per un mondo relativo. How can you ask people who live in the Arctic or in desert regions to become followers of the Buddha? Come puoi chiedere alle persone che vivono nell'Artico o nei deserti di diventare seguaci del Buddha? If they can't, you know, eat what's the land offers, which is either, you know, fishing or goats. Perché loro devono mangiare quello che gli offre la loro terra. Quindi pesci o goats, come si chiama? Capre, sì. So be careful not to corner yourself into an ism. Quindi state attenti a non incastrarvi in un si potrebbe dire ismismo. Remember that if questions come up, you can always put them on the sheet outside. E se viene fuori qualche domanda potete sempre metterla sul foglio che c'è fuori. The next thing I want to talk about is this virtuous circle. E la prossima cosa di cui voglio parlare è il circolo virtuoso. Gratitude, generosity and renunciation. Gratitudine, generosità e rinuncia. Gratitude comes easily to us when we feel thankful. When we feel thankful. La gratitudine viene facilmente a noi quando ci sentiamo grati. If somebody does something good for us, we naturally want to pay them back. Se qualcuno fa qualcosa che è buono per noi, noi naturalmente vogliamo restituirlo. And if we cannot pay them back, we like to pass on the gift to somebody else. E se non possiamo ripagarli di quello che hanno fatto, possiamo passare questo dono a qualcun altro. Here we have a connection between developing gratitude for everything so that we give easily. C'è quindi una connessione a sviluppare la gratitudine so that we can give. Così poi possiamo dare più facilmente. somebody has written to tell me that since the baby was born, she has little sleep, has no time for herself, etc., etc. Una persona mi ha detto che da quando è nato un bambino, il suo bambino, non ha più tempo per dormire, non ha più tempo per se stessa. So I said, what did you expect? Gli ho chiesto che ti aspettavi. I said, it makes it easier if you think that your parents suffered the same. For you. Potrebbe risultarti più facile se pensi che i tuoi genitori hanno fatto lo stesso per te. And that you're simply passing on the gift to your child. E quindi stai semplicemente passando il dono al tuo bambino. Ah, I'm waiting for the answer. Aspetto ancora la risposta. So we see, eh? Eventually, when we see the benefit of gratitude, sometimes we don't even need to feel grateful. Alla fine, quando noi vediamo i benefici della gratitudine, noi non dobbiamo nemmeno essere grati. When we give something, it brings a joy. If we give something from the goodness of our heart, it actually brings joy to our hearts. Se noi diamo qualcosa con bontà del cuore, ci porta una gioia a noi stessi. And it brings us joy to see that we brought some joy in another person's life. E quindi è una gioia vedere che abbiamo portato della gioia nella vita di qualcuno. So there's usually an immediate gift in return. C'è subito un dono immediato di ritorno. But here we have to be a little careful. Dobbiamo però stare attenti. Because once we start feeling that, we start to do it in order to feel good. Perché quando cominciamo a sentire questa cosa, allora cominciamo a farlo per sentirci buoni. And often it becomes part of our self-definition. Un'offerta diventa una parte della nostra definizione di noi stessi. I'm a very generous person. Io sono una persona molto generosa. See? And so we start doing it in order to reinforce this sense of pride, which is I'm a very generous person. E quindi devo farlo per rinforzare il senso di orgoglio e questa assunzione che io sono una persona molto generosa. You can undermine that by making sure that you've always asked the person what they need or want. Si può diminuire questa cosa cercando di essere sicuri che noi abbiamo sempre chiesto alle persone di cosa avevano bisogno. Because when we tend to please ourselves, we tend to do those things which most please ourselves. Perché quando noi lo facciamo per farci un piacere a noi, allora alla fine facciamo quelle cose che più piacciono a noi. You might offer to do somebody's garden because you enjoy doing the garden. E quindi potresti offrirti di fare del giardinaggio da qualcuno perché a te piace fare il giardinaggio. And you don't hear the person say, no, I don't want you to do my garden. E non sentite nemmeno la persona che dice, no, io non voglio che mi faccia. You still arrive with your tools. Comunque arrivate, vi presentate da questo con i vostri attrezzi. In English we say, this is a do-gooder. Questo in inglese si dice, questo è do-gooder, cioè un benefattore. Ma no, questo ha un altro significato in italiano. Insomma, uno che fa del bene. And of course it can be very annoying. E può essere molto disturbante. Annoioso. Annoying. Seccante, sì. So we undermine that process by always asking the other what they want from us. Quindi noi possiamo ridurre l'entità di questo processo chiedendo sempre agli altri che cosa vogliono. And the other mistake, of course, is when we are asked, we say yes too quickly. E un altro sbaglio, naturalmente, è quando diciamo sì troppo velocemente. Ah, so somebody says, I'm decorating my house. You know, it'd be great if you came along to give me a hand. Sì, quando si viene chiesto, quindi se qualcuno ci dice io sto ridipingendo la casa, avrei bisogno di una mano. Sarebbe una bella cosa se tu potessi venire. Ah, and you say, oh yeah, I'll come Saturday. Sì, sì, si risponde subito, sì, sì, uh-huh. Vengo sabato. Ah, and then afterwards you say, what? E dopo... Yeah, anything. So then you have to phone up on Saturday morning and say you're ill, you're very busy. E poi dopo vi tocca telefonare sabato mattina dicendo ma no, sono malato. So it's always good to say let me think about it. La cosa migliore è sempre dire fammici pensare sopra. Ah. Now, whenever you give with a good heart, quando voi donate con la bontà del cuore, you're always relinquishing something. You're always giving something up. State sempre abbandonando qualche cosa, lasciando qualcosa. Ah, so if we give money to a charity, we could have used that money for my own happiness, etc. Se si dà dei soldi a un'organizzazione benefica, potremmo sempre usare quei soldi per noi stessi. Ah, but in giving it away, we're renouncing something that we might have enjoyed. E invece dando via questi soldi, noi stiamo rinunciando a qualcosa che avremmo potuto godere. Ah. The whole of the spiritual path is the path of renunciation. Tutto il percorso spirituale, il cammino, è un cammino di rinuncia. Mm. Now, here we might get confused between renunciation and self-mortification. Ora, qui potremmo confonderci tra la rinuncia e l'automortificazione. Ah. We're not trying to punish ourselves or to make our lives miserable. Non stiamo cercando di punirci o di far diventare la nostra vita una schifezza. Ah. We're trying to find out where our attachments are. Noi stiamo solo cercando di scoprire dove sono i nostri attaccamenti. Ah, and it's only in letting go of our attachments that we liberate ourselves from them. È solamente lasciando andare i nostri attaccamenti, in questo modo ci liberiamo di essi. Ah. So, when we make an offering and we say to ourselves, that means... I might not be able to do something which I wanted to. Quando facciamo un'offerta, noi dovremmo chiederci, potrei non. We're giving up something we might have wanted to do. Potrei. When we give something, we might have to give up something that we had wanted to do. Noi potremmo lasciare qualche cosa che volevamo fare. And we can feel a certain aversion to doing that. E potremmo sentire una certa avversione a fare questo. Mm. So, just like in Vipassana, if we allow the aversion to die away, we are renouncing that particular attachment. Allora, come si fa nella Vipassana, se noi diamo il tempo all'avversione di smorzarsi, noi possiamo liberarci di quel particolare attaccamento. Mm. And when we let go of something, if we can catch that the joy of liberation, quando noi lasciamo andare qualcosa, noi se riusciamo a cogliere la gioia della liberazione. The more we will want to renounce. E più che lo facciamo e più che vorremo rinunciare. Supposing you had a sort of strong addiction to something. Metti che abbiamo una forte dipendenza da qualcosa. Smoking, say. Per esempio, fumare. When the person finally overcomes that attachment, there's of course a sense of liberation. Quando le persone alla fine riescono a superare questo attaccamento, alla fine sentono un senso di liberazione. It's really recognizing the joy of renunciation that will make us renounce the more. È proprio riconoscendo la gioia della rinuncia che ci farà rinunciare ancora di più. Just to be free of the sense of compulsion. Essere liberi del senso di compulsione, di dover fare qualcosa. And it's the same with time. Lo stesso col tempo. When we offer our time in voluntary work to something that we wish to support. Quando noi offriamo il nostro tempo in lavoro volontario per fare qualcosa che noi vogliamo aiutare, we are renouncing the time we could have spent just enjoying ourselves. Noi rinunciamo al tempo che potevamo aver passato divertendoci. And it's the two things. It's catching the joy of liberation from compulsion. E due cose: di cogliere la gioia della liberazione dalla compulsione, And the joy of giving. E la gioia di dare. So it's win-win. Vincere-vincere. Vincere-vincere. Not win-lose or no. Lose-win, but win-win. Sono due vittorie. Sì. So, if you can sometime in the day always do something, some little thing, just out of the practice of giving. Quindi in qualsiasi momento del giorno, se possiamo fare anche una piccola cosa per la pratica del dare, You'll see it lifts your life. Questo innalza la vostra vita. Gratitude, generosity and renunciation. Gratitudine, generosità, rinuncia. Virtuous circle. Un circolo virtuoso. And finally, taking refuges and precepts. E per finire, prendere rifugi e precetti. So some of you here have already taken it, so this is addressing those who haven't. E molti li hanno, qualcuno li ha già presi, quindi questo è per quelli che non l'hanno ancora fatto. There comes a time in the spiritual life when there has to be, in a sense, a moment of commitment. Arriva un momento nella vita spirituale in cui ci deve essere un senso di impegno. If not, you tend not to take the next step. It stops you, you see. Se non c'è questo, si tende a not to take the next step. A non fare il passo successivo. You always stay at the level of experimenting. Si rimane sempre a un livello di sperimentazione. You never actually give your full heart, your body, heart and mind to the practice. Non si dà mai il cuore completamente, il cuore e la mente alla pratica. Even the body. E anche il corpo. Taking refuges and precepts allows us to do that. Prendere rifugi e precetti ci permette di fare questo. So when we take refuge in the Buddha, we are, quando prendiamo i rifugi nel Buddha, it is both an acceptance of the Buddha as the teacher, the exemplar. Sia accettare il Buddha come teacher, come insegnante, gli esempi, But also as an archetype. ma anche come un archetipo. Ah, because the life of renunciation is in every spiritual path. See? Perché la vita di rinuncia è in ogni percorso spirituale. Mm. Here, of course, in Italy, you have the wonderful example of Saint Francis. You see. Qui in Italia c'è il meraviglioso esempio di San Francesco. Ah. San Francesco. Ah. But it's also taking refuge in the Buddha within. Ma è anche prendere rifugio nel Buddha che è dentro. Ah, that there is something in us that seeks liberation. C'è qualcosa dentro di noi che cerca la liberazione. Ah. When we take refuge in the Dhamma, we take refuge in the teaching. Quando prendiamo rifugio nel Dhamma, prendiamo rifugio nell'insegnamento. Ah, in both the understanding and the practice. Sia nell'understanding, nella comprensione, sia nella pratica. Ah, and when it comes to the Sangha, it is having confidence that there have been many people who've actually experienced what the Buddha experienced. E quando si arriva al Sangha è avere fiducia che molte persone hanno fatto l'esperienza di quello che il Buddha ha fatto lui stesso esperienza. Yes. Taking refuge means that it's to do with confidence. Prendere rifugio ha a che vedere con la fiducia. Mm. And it depends where you are in your practice. Dipende dove sei nella tua pratica. If the not so much the Buddha, but the Buddha Dhamma, the teaching of the Buddha. Non semplicemente il Buddha, ma il Buddha Dhamma, cioè l'insegnamento del Buddha. It's the if that becomes your reference point. Se quello diventa il vostro punto di riferimento. Then that's what we mean by taking refuge. That's what we mean by questo, taking. Questo è ciò che significa prendere rifugio. Ah. And then, so those are the three refuges. Eh? These are the three refuges. I tre rifugi. Eh? And then the five training rules. E le cinque regole di addestramento, allenamento. I think just basic for any civilized society. Che sono cose di base per ogni civiltà. Per ogni società civilizzata. Mm. But the important thing to understand is that they're not commandments. E la cosa importante da capire è che non sono comandamenti. Ah. They are sikapada, they are training rules. Sono regole di training, di addestramento, allenamento. So we do our best. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio. And remember that although these rules are put in the negative, I undertake the training rule not to harm any living being. Bisogna capire che anche se queste regole sono messe al negativo, cioè io intraprendo questo cammino per non uccidere, per non far del male a nessun essere vivente. Ah, it presumes the opposite, that you'll take care of them. Si presume invece l'opposto, cioè il positivo, quindi che si prenderà cura degli esseri viventi. So, if a person is drawn to that, I always suggest that the person takes it for 1 year. Se una persona lo intende fare, si è attratto da questo. Io consiglio di prenderlo per un anno. Ah. And in that 1 year, there is every day to repeat the refuges and precepts and to commit oneself. E tutti i giorni durante quest'anno di ripetersi i rifugi e i precetti e di impegnarsi. Ah. To the practice, to reading a little bit about the Buddha's teaching, but especially to continue with the practice. Sì, impegnarsi nel leggere qualche cosa degli insegnamenti del Buddha, ma specialmente nella pratica. Ah. And by the end of the year to reflect, you know, was it helpful? E alla fine dell'anno riflettere se è stato d'aiuto. Ah. And if it wasn't helpful, well, you can become a Muslim. Se non è stato d'aiuto, potete sempre diventare musulmani. It's not a case of it's not a case of belief, remember, you see. Non è un problema di credenza. Mm. It's always a case of investigation, you see. È sempre un problema di investigare. An exploration. Esplorare. Mm. So we covered quite a bit this evening, eh? We talked about a lot this evening. Sì, abbiamo parlato assai di queste cose stasera. So how to bring practice into daily life? Di come portare la pratica nella vita di tutti I giorni. We talked about right livelihood and how we can purify our attitude to ambitions. Abbiamo parlato del retto modo di vivere e di come purificare le nostre ambizioni. Consumerism and vegetarianism. Consumismo, essere vegetariani. This vicious circle of gratitude, generosity and renunciation. Il circolo virtuoso della generosità e gratitudine, generosità e rinuncia. E rinuncia. And finally, taking refuge in precepts. E alla fine abbiamo parlato di prendere rifugio e precetti. And if you want to do that, over the if you think about it and you want to do it, then you have to tell me on Saturday. Se ci pensate sopra, se poi lo volete fare, me lo dovete dire sabato, domani. Domani, sì, domani. Allora. I can only hope my words have been of some assistance. Io posso solo sperare che le mie parole siano state di qualche aiuto. Ah, may you, by your commitment to your practice. May you? May you, by your commitment to your practice. Possiate voi, attraverso l'impegno nella vostra pratica, achieve the happiness of Nibbana sooner rather than later. Arrivare alla felicità del Nibbana prima piuttosto che dopo. Sadhu, sadhu, sadhu. Ah, very good. So that